Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta ad esplorare strani mondi, a ricercare nuove forme di vita e nuove civiltà, ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. La voce che avete appena sentito è quella del capitano James Tiberius Kirk, comandante della USS Enterprise, l'astronave che negli anni 60 ha portato a spasso per le galassie i protagonisti della serie Star Trek. Da almeno un secolo la fantascienza ci fa sognare viaggi immaginari e impossibili, lontani dalla realtà che viviamo tutti i giorni, quasi a rimarcare le distanze siderali che spesso separano ciò che vogliamo da ciò che possiamo. Eppure, nel secondo dopoguerra, la realtà ha fatto un balzo inatteso verso i territori fin lì riservati alla fantasia. E quei sogni di viaggi inconsueti e immaginifici si sono concretizzati nella cosiddetta corsa allo spazio. Abbiamo oltrepassato l'atmosfera, camminato sulla Luna e inviato navicelle sul pianeta Marte, prendendo alla lettera le raccomandazioni del capitano Kirk, che ci esortava ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. E se invece di un uomo si fosse trattato di una donna? Avete capito bene. Il primo uomo a compiere un viaggio intorno all'orbita terrestre avrebbe potuto, anzi, avrebbe dovuto essere una donna. Già nei primi decenni del Novecento, infatti, una lunga schiera di donne si era distinta per meriti e abilità di appannaggio tipicamente e tradizionalmente maschile. Una su tutte, la capacità di pilotare aeroplani. New York City, 1910. La giornalista Harriet Quimby va a Long Island per assistere al Belmont Park International Aviation Tournament, celebre esibizione sulla quale deve scrivere un trafiletto. Galeotto fu l'articolo in questo caso. Harriet si innamora degli aeroplani al punto da diventare, nel giro di un paio di mesi, la prima donna a ottenere una licenza d'aviazione negli Stati Uniti e nel giro di un paio d'anni la prima donna al mondo a trasvolare lo Stretto della Manica. Ce ne parla Deborah Douglas, storica dell'aviazione presso il Centro Ricerche di Langley in Virginia. Fu un evento che avrebbe avuto molta più risonanza mediatica se non fosse stato per il Titanic, che pensò bene di affondare la notte seguente. Così, sfortunatamente, i giornali non titolarono «Harriet ha trasvolato la Manica», ma «Il Titanic affonda». Sfortunate ma motivate, pronte a non darsi affatto per vinte. Per tutto il corso degli anni venti, le donne pilota continuano ad essere considerate un'eccezione, una bizzarria, un'anomalia malapena degna di nota. Ma alla fine di quel decennio, il 14 agosto del 1929, 20 piloti in gonnella si ritrovano a Santa Monica, in California, per il primissimo torneo d'aviazione femminile. A vincerlo è la 23enne Louise Tayden. Il torneo non serve semplicemente a mettere in bella mostra le abilità delle donne alla cloche. È l'occasione per farle incontrare e cementare quello spirito di gruppo che dà vita alla prima associazione mondiale di donne pilota. Il primo presidente del neonato club è una formidabile 32enne che giusto un anno prima ha attraversato l'Atlantico in volo, diventando subito una celebrità. Ma ad Amelia Earhart non interessa tenersi la gloria tutta per sé. Vuole condividerla con le compagne e incoraggiarle a fare sempre meglio. Il messaggio della Earhart è proprio questo: non lasciare che gli ostacoli ti intralcino la via, non credere che siano insormontabili. Se vuoi qualcosa, se hai un obiettivo, perseguilo e basta. Ed è proprio questo che fa Jackie Cochran, una giovane ed ambiziosa rappresentante di cosmetici, che all'inizio degli anni 30 si accorge di come sia più semplice volare dai suoi clienti piuttosto che raggiungerli in auto da un capo all'altro dell'America. Presto il volo smette di essere soltanto un mezzo utile alla professione e diventa parte fondante della sua vita. Nel 1940 Jackie fa il suo record di velocità a bordo di un velivolo, 534 km orari, meglio di qualunque altra donna e di qualunque altro uomo. traversate oceaniche, record di velocità. Sembra che le donne pilota non vogliano farsi mancare proprio niente. Ma c'è un traguardo al quale la nostra prima protagonista di oggi sembra puntare con ancora maggior determinazione. È un erede delle donne coraggiose, delle pioniere appena elencate, che hanno iniziato la storia del volo al femminile. E lei non vuole essere da meno. È bella, giovane e sfrontata. Il suo nome è Jerry Cobb. Jerry Cobb. La meta alla quale punta la signorina Cobb è certamente ambiziosa. La conquista dello spazio, scusate se è poco. Facciamo un passo indietro e scopriamo come nella mente di una normale ragazza americana possa insinuarsi l'idea di un folle volo spaziale. Geraldine Cobb, detta affettuosamente Jerry, nasce a Norman, Oklahoma, il 5 marzo del 1931. Al tenente colonnello William H. Cobb dell'esercito degli Stati Uniti non sembra quasi vero che la figlia preferisca i soldatini alle bambole. Anzi, meglio ancora, alle bambole e ai soldatini, Jerry preferisce decisamente gli aeroplani. Il primo volo risale all'età di 12 anni, quando il colonnello Cobb la fa sedere al posto del passeggero di un Waco Open Cockpit del 1936. È così, a bordo di un biplano, che inizia una vera e propria storia d'amore. Sento che la vita è un'avventura e io voglio che il cielo sia tutto mio. Altro che primi baci. A 16 anni, quando è ancora una studentessa alla Oklahoma City Classen High School, prende il suo primo brevetto e per il suo 18esimo compleanno si regala la licenza di pilota di voli commerciali, cui presto aggiunge quella di istruttrice di volo. Ed è proprio durante gli anni del liceo che Jerry inizia a guadagnarsi i primi soldi facendo acrobazie con un Piper J3 Cub, spargendo in giro per le cittadine del circondario volantini che annunciano l'arrivo di un circo con tanto di elefanti. Arriva a dormire sotto le ali del suo Piper e per racimolare i soldi per la benzina dà passaggi a chiunque capiti. Finite le scuole, Jerry si guadagna da vivere volando radente sui campi e spargendo fertilizzanti. Ma nei primi anni 50, dopo che tanti piloti professionisti sono tornati dalla guerra, per una donna è pressoché impossibile trovare lavoro a bordo di un aeroplano. A parlarcene è ancora Deborah Douglas, storica dell'aviazione. Alla fine della guerra tutti affermavano ufficialmente che le donne sapevano volare. Ma poi, subito dopo, la gente ha smesso di chiedersi se ne fossero capaci ed ha cominciato a chiedersi se fosse il caso che lo facessero. Jerry non demorde e ad appena 21 anni fa decollare bombardieri militari come fossero aeroplanini di carta. Come pilota commerciale stabilisce svariati record in fatto di altitudine e velocità. È la prima donna al mondo a esibirsi nel prestigioso Salon Aeronautique International di Parigi e la celebre rivista americana Life la inserisce nella lista delle donne più importanti del paese. Non solo è decisamente il caso che le donne volino, ma è bene che si tengano pronte per affrontare le gigantesche novità che stanno per cambiare per sempre la storia dell'umanità. Oggi c'è una nuova luna lassù nel cielo. Una sfera di metallo di 60 centimetri lanciata in orbita da un razzo russo. Quelli che sentite sono i segnali emessi dal satellite in orbita. Il 4 ottobre del 1957 ha ufficialmente inizio l'era spaziale. Sono i russi a inaugurarla lanciando nello spazio il primo satellite artificiale della storia, lo Sputnik, una sfera d'alluminio di poco più di mezzo metro di diametro, dotata di 4 smilze antenne. Gli Stati Uniti non possono stare a guardare. Dopo il lancio del primo satellite americano, avvenuto un anno più tardi, sul finire del decennio, la neonata NASA, la National Aeronautics and Space Administration, annuncia un progetto ambizioso, denominato Project Mercury. Si tratta di mandare il primo uomo nello spazio. Mentre gli ingegneri e i progettisti della NASA sono indaffarati a costruire un razzo, si cerca qualcuno che sia in grado di pilotarlo. Si spulciano le liste dei migliori piloti di jet distintisi per abilità e coraggio durante la Seconda Guerra Mondiale e si selezionano 32 candidati da sottoporre ad accurati test presso la Lovelace Clinic di Albuquerque, nel New Mexico, in assoluto il miglior centro al mondo in materia di interazioni tra medicina, fisica e suggestioni aerospaziali. A dirigerla è il dottor Randy Lovelace, medico illuminato e lungimirante. Il dottor Donald Kilgore, presidente emerito del Lovelace Center, è certo che l'immaginazione del dottor Lovelace sia in grado di cambiare il mondo. Nel febbraio del 1959 ad Albuquerque iniziano i test sui 32 candidati selezionati dalla NASA. Maschi forti e vigorosi, abituati ad affrontare i combattimenti e le difficoltà del fronte bellico, vengono sottoposti a esami clinici che certifichino la loro resistenza agli stress di un volo spaziale. In una trionfale cerimonia tenutasi il 2 aprile 1959, la NASA presenta al mondo il gruppo dei Mercury 7, i 7 nuovi eroi americani che, dopo aver valorosamente combattuto una guerra, altrettanto valorosamente varcheranno le soglie dell'atmosfera terrestre. Ma il dottor Randy Lovelace ha in serbo una sorpresa. Il dottor Lovelace lavora per la NASA, ma nel frattempo porta avanti ricerche per conto suo. In una conferenza medica a Mosca, nel settembre del 1959, trova le conferme a una sua interessante teoria. I sovietici stanno seriamente considerando l'idea di mandare una donna nello spazio. Tornato nuovamente ad Albuquerque, il dottor Lovelace è pronto a ripetere gli stessi test clinici condotti sui Mercury 7. Stavolta, però, li condurrà su un gruppo di donne. Lovelace è rimasto folgorato da una pilota 28enne incontrata a una manifestazione aeronautica a Miami. Lei, naturalmente, è Jerry Cobb e sarà la prima a sottoporsi con piacere agli stessi test pensati per i suoi colleghi maschi. Lovelace le ha chiesto se le andava di partecipare ai test, se la sentiva, e lei ha risposto assolutamente sì. Il 15 febbraio del 1960, Jerry Cobb viene ricoverata alla Lovelace Clinic di Albuquerque e sottoposta per un'intera settimana a una serie di esami intensivi, 75 per la precisione. Si spazia dalle prove di resistenza fisica a quelle di tenuta puramente psicologica per testare se anche il cosiddetto sesso debole sia in grado di sostenere le enormi pressioni pratiche e mentali di un volo nello spazio. Facevano mettere le mani in un secchiello di acqua ghiacciata e ti dicevano di tenerle lì, ferme. Questo avrebbe generato rapidamente uno stress incredibile. E lo scopo del test era proprio quello di scoprire quanto a lungo si riuscisse a sopportare una condizione simile. Non solo la Cobb dimostra di essere all'altezza dei colleghi dell'altro sesso, ma in certi casi i suoi risultati sono addirittura migliori. Il dottor Lovelace chiede a Jerry di mantenere il più assoluto riservo sulle sensazionali scoperte appena conseguite. 6 mesi più tardi è lui ad annunciarle pubblicamente. Jerry Cobb, secondo il dottor Lovelace, è perfettamente idonea e pronta per diventare il primo uomo a volare nello spazio. Do you think you can compete with men? Crede di poter competere con gli uomini? I'm not competing with them. Io non sto facendo una gara con gli uomini. Semplicemente credo che sia gli uomini che le donne voleranno nello spazio. La Cobb fa davvero del suo meglio per dribblare l'attenzione mediatica che la investe all'improvviso in quei giorni di inizio anni 60. La notorietà improvvisa può rivelarsi fastidiosa, ma mai quanto l'ostentazione di certi vecchi, odiosi pregiudizi. Ma una bella ragazza come lei non pensa al matrimonio? No, a me queste cose al momento non interessano. Mi interessa quel che sto facendo, più di ogni altra cosa al mondo. Intende dire che ha più paura degli uomini di quanto ne abbia di volare nello spazio? No, non direi. Per provare senza alcuna ombra di dubbio il suo valore come pilota e la sua idoneità sul piano fisico e psicologico, Jerry Cobb ripete da capo i test condotti fino a quel momento e li supera di nuovo tutti quanti, brillantemente. I risultati li hanno scioccati. E non perché avessero paura che le donne potessero davvero battere gli uomini, ma perché i risultati ottenuti dimostravano che le loro convinzioni erano sbagliate. E da bravi scienziati hanno dovuto porsi il dubbio se quei risultati fossero veri per tutte le donne o se si trattasse di un'anomalia. Scienziati e cervelloni della NASA non si sono nemmeno mai posti il problema. Nelle loro teste è evidente, addirittura lapalissiano, che debba essere un uomo, inteso come essere di sesso maschile, a mettere per la prima volta un piede nello spazio. Nessuno è pronto a scendere a patti col fatto che gli studi condotti da medici autorizzati dalla stessa NASA dimostrano che il sesso debole può essere più forte, più resistente, più indicato a tollerare lo stress di un volo al di fuori dell'orbita terrestre. Se sulla carta, o meglio, sulle cartelle cliniche del dottor Lovelace, il brillante futuro di Jerry Cobb sembra essere già scritto, dall'altra parte ci sono 7 uomini, i famigerati Mercury 7, con cui la signorina deve ancora fare i conti. Uno di loro, in particolare, le darà parecchio filo da torcere. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Questa celeberrima frase, estrapolata per l'occasione dal film Apollo 13, è ovviamente pronunciata da una voce maschile. Vi è mai capitato di chiedervi che differenza avrebbe fatto se a scandire il fatidico «Houston, abbiamo un problema» fosse stata invece una donna? All'inizio degli anni 60, l'abilissima pilota Jerry Cobb ha tutte le carte in regola per scrivere una pagina memorabile della storia americana e mondiale. Potrebbe essere proprio lei, una donna, il primo essere umano a mettere piede nello spazio. Ma la sua strada verso le stelle è lastricata di pregiudizi, consuetudini sociali e piloti di sesso maschile. La cosa che colpiva delle donne era che erano certamente più disciplinate. Se dicevi loro di andare a letto alle 7, andavano a letto alle 7 e non facevano nessuna protesta, non vedevano alcun motivo di farlo e non si lamentavano mai. Io credo che in generale le donne siano più resistenti, più inclini a sopportare il dolore e gli stress di qualunque uomo. Donald Kilgore, presidente emerito del Loveland Center, ricorda ancora con stupore i risultati sorprendenti conseguiti da Jerry Cobb e dalle altre donne sottoposte ai test. Già perché il dottor Loveland, galvanizzato dalle apparentemente eccezionali caratteristiche fisiche e psichiche della signorina Cobb, decide di condurre identici esami su una dozzina di donne pilota provenienti da tutta America e scopre che in quei parametri non c'è nulla di eccezionale. La Cobb non rappresenta un'eccezione. Le sue colleghe sono tutte perfettamente idonee a volare nello spazio, più e meglio di qualunque uomo. Ma non basta. La NASA ha già pronta la sua batteria di valorosi ex combattenti della Seconda Guerra Mondiale, tutti piloti provetti ansiosi di passare alla storia grazie a una nuova grande impresa. Tra loro spicca un quarantenne alto, biondo e dall'aspetto fiero. Il suo nome è John Glenn. John Glenn. John Glenn è un veterano non solo del Secondo Conflitto Mondiale, ma anche della Guerra di Corea. Ha pilotato il suo aereo con coraggio, determinazione e sprezzo del pericolo in situazioni durissime. Ed è proprio questo approccio macho, militarista e fieramente interventista che interessa le gerarchie del programma spaziale molto più di una serie di cifre scritte su un foglio di carta. I vertici della NASA vogliono qualcuno che sia cresciuto con quello spirito combattente nel sangue. Credo che le lezioni imparate dalla Seconda Guerra Mondiale e le esperienze vissute nella Seconda Guerra Mondiale abbiano influenzato tanto le nostre vite. Ogni volta che siamo coinvolti in qualcosa di più grande di noi, smettiamo di dire io. Specialmente i giovani, al giorno d'oggi, si riferiscono sempre a loro stessi. Non si sentono parte di nulla di più grande di loro, di qualcosa che abbia uno scopo più alto e nobile. Questa cosa, invece, per noi è arrivata presto, sotto forma di Seconda Guerra Mondiale. La prima data fatidica nella vita di John Herschel Glenn Jr. è il 7 dicembre del 1941. Quella mattina alle 7.55 la base americana di Pearl Harbor viene attaccata dai giapponesi. Gli Stati Uniti non perdono tempo ed entrano immediatamente nel conflitto mondiale. John Glenn allora ha 20 anni e frequenta la facoltà di chimica del Muskingum College di New Concord, Ohio. È proprio lì che sta andando per seguire una lezione quando dalla radio della sua auto apprende la notizia dell'attacco. John sceglie di mollare tutto e arruolarsi subito nell'esercito. Accantona le formule e sfodera il brevetto di pilota, in quel momento certamente più utile alla causa del suo paese. La carriera di John come pilota militare non rappresenta una brusca deviazione dalla sua vera vocazione di scienziato, anzi, fin da quando è bambino, l'idea di volare è connaturata al suo essere. La prima cosa che ricordo è che ero con mio padre in macchina e passammo di fianco a un piccolo campo di volo. Avevo 8 anni. Mio padre vide che guardavo gli aerei con aria rapita e pensò di portarmi a fare un giro. Quando tornai a casa, cominciai a costruire ossessivamente modellini di aeroplani. Era fatta. Arruolatosi come pilota da combattimento nel corpo dei Marines, Glenn si batte valorosamente. È indubbiamente bravo e altrettanto indubbiamente modesto. Chi è il pilota migliore che ha mai incontrato? Io. Per la NASA, ansiosa di recuperare il tempo perduto e battere i cosmonauti sovietici, John Glenn è il candidato ideale. Ma c'è una donna che insidia i suoi primati e le sue medaglie al valore. Anche lei ha cominciato presto ad amare gli aerei, quando aveva solo 12 anni. A 28 ne ha già pilotati 64 tipi differenti, stabilendo diversi record mondiali in fatto di velocità, distanza e altitudine assoluta. Ha accumulato nella sua ancor giovane carriera ben 10.000 ore di volo, il doppio del miglior candidato maschio, il pluridecorato John Glenn. Può anche darsi che la signorina Cobb non abbia combattuto una guerra, ma se si tratta di pilotare un aereo, non è seconda a nessuno. Non era la NASA che voleva provarci, ma era il dottor Loveless che voleva. Deborah Douglas ricorda la determinazione del dottor Loveless nel condurre i test sulle donne pilota, che lui ritiene indubitabilmente più adatte a guidare un razzo rispetto agli uomini. Nonostante la NASA e l'Air Force abbiano già ufficialmente concluso il loro programma di reclutamento dei candidati astronauti, Loveless continua imperterrito i suoi esperimenti, facendosi finanziare proprio da Jackie Cochran, pioniera dell'aviazione seconda soltanto all'inarrivabile Amelia Earhart. Sottopone le sue aspiranti astronaute a test che in certi casi si rivelano ancora più duri di quelli affrontati dai colleghi maschi. Resistenza cardiaca, capacità polmonare, resistenza alla solitudine, alla deprivazione sensoriale, all'accelerazione, alla forza centrifuga, alle vertigini e al dolore fisico. La percentuale di donne che supera i test è del 68%, mentre per gli uomini la cifra si abbassa al 56%. I dati non fanno che confermare nuovamente le astruse teorie di Loveless. In generale, le donne sembrerebbero decisamente più idonee a volare nello spazio. Signorina Cobb, lei oggi ha affermato che le donne sarebbero astronauti migliori degli uomini. Davvero crede che sia così? Beh, è stato dimostrato dai medici e dagli scienziati, e certamente è ovvio che in alcuni ambiti è così. Le donne, ovviamente, pesano di meno e richiedono anche un minor dispendio di cibo e di ossigeno. Quindi è evidente che per certi versi le donne sarebbero più adatte. Ci sono casi in cui invece uomini sono migliori. Ad ogni modo, io non credo che gli uni prevarichino le altre e viceversa. Entrambi allo stesso modo sarebbero ottimi astronauti. Tostissima, bionda, fotogenica e persino diplomatica, Jerry Cobb non si fa mancare proprio niente. Ma c'è un però. È solo l'inizio degli anni 60 e la questione dell'emancipazione femminile è davvero diversa da come siamo abituati a vederla dalla nostra prospettiva. In quel periodo le donne non possono entrare nell'esercito e se vogliono ottenere un prestito o comprare una proprietà devono farsi garantire dal marito. Solo una donna su 4 lavora, le altre, se tutto va bene, restano a casa a sfornare biscotti. Certo, nessuna di queste mogliettine premurose e sottomesse assomiglia anche solo pallidamente all'indomita Jerry Cobb. Noi che aspiriamo ad essere donne astronauti, chiediamo ci sia concessa l'opportunità di contribuire alla gloria del nostro paese. E per farlo serve che una donna americana sia la prima a compiere un viaggio nello spazio. Ma il 20 febbraio del 1962 è l'ex soldato John Glenn a compiere l'impresa. Ed era anche ora. Per la seconda volta, infatti, l'America è in ritardo sull'Unione Sovietica, che ha mandato in orbita il cosmonauta Yuri Gagarin il 12 aprile del 1961, quasi un anno prima. Dopo il lancio dello Sputnik, sembra proprio che gli americani ci stiano prendendo gusto a perdere delle occasioni d'oro. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Destini incrociati. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Le parole di Neil Armstrong risuonano ancora maestose, anche se sono passati più di 40 anni. È l'indimenticabile, emozionante frase di un uomo che per primo mette piede sulla superficie della Luna. È il 1969 e la conquista dello spazio è ormai una faccenda rigorosamente americana e altrettanto rigorosamente maschile. Ma non è sempre stato così. Giusto una manciata di anni prima, all'inizio degli anni 60, due piloti, John Glenn e Jerry Cobb, un uomo e una donna, lottano per contendersi un posto a bordo del Mercury 6, il primo razzo che compirà un viaggio al di fuori dell'orbita terrestre con a bordo un essere umano. Miss Cobb è più qualificata e persino più abile del suo collega di sesso opposto, ma Mr. Glenn ha dalla sua un brevetto militare e contro quello non c'è molto da fare. Signorina Cobb, lei crede che le donne siano discriminate per quel che concerne il programma spaziale? Io non credo che si tratti necessariamente di discriminazione. Io credo piuttosto che siano state stabilite delle regole discutibili che rendono impossibile alle donne ottenere le qualifiche necessarie per essere un astronauta. Questa è l'unica discriminazione. E queste qualifiche necessarie dovrebbero poter essere estese a tutte le donne che hanno un'identica esperienza di volo, identica o superiore a quella dei piloti di sesso maschile. La possibilità per le donne di far parte dell'esercito e di conseguire un brevetto di volo militare non si concretizzerà fino al 1975. E gli americani, all'inizio degli anni 60, non hanno certo il tempo di star lì ad aspettare, occupandosi di qualche assurda velleità femminile. Devono recuperare terreno sui russi, che il 12 aprile del 1961 hanno mandato in orbita il Vostok 1, con a bordo il cosmonauta Yuri Gagarin. Lo stesso John Glenn si dimostra piuttosto lapidario in fatto di ambizioni del gentile il sesso. Il fatto che non ci sia presenza femminile nel campo dei voli spaziali è legato al mantenimento del nostro ordine sociale. Questa frase è a dir poco infelice. Glenn la pronuncia a Washington, davanti al Congresso. È lì che Jerry Cobb e le altre ragazze battagliere che sognano le stelle hanno spostato il loro campo di battaglia. Se John Glenn, un uomo, le ha battute nella corsa ad essere il primo cittadino americano nello spazio, ciò non toglie che anche le donne debbano avere il diritto di andarci. Ma come diceva Albert Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Non è che si volesse fare della discriminazione nei confronti delle donne, è che non avevano mai considerato ci fosse una possibilità per loro. Non gli era nemmeno passato per la mente di fare test sulle donne. Ma quando poi sono stati messi di fronte alla possibilità, questa si è rivelata estremamente sconveniente. Non era un buon momento. Sono gli uomini che combattono e sono gli uomini che guidano gli aerei. Questa è l'inscalfibile tesi di John Glenn e dei suoi colleghi e superiori. Là nei palazzi della politica e della burocrazia, Glenn e la Cobb incrociano i propri sguardi, entrambi convinti di essere dalla parte della ragione. Uno dei due però ha torto. Ragione non importa. La battaglia per un posto fra le stelle l'ha già vinta John Glenn e la vincono definitivamente gli allora vertici della NASA quando interviene il vicepresidente Lyndon Johnson, che intima ai contendenti di fermare immediatamente la bagarre in corso. Così i sovietici possono nuovamente scavalcare gli odiati americani. Lo fanno nel 1963, quando la prima donna a volare nello spazio è Valentina Tereshkova, di professione operaia. Gli Stati Uniti hanno perso un'altra occasione. Jerry Cobb, disgustata dai giochi di potere e dalla manifesta ottusità dei suoi connazionali, parte alla volta del Sud America, ma non lascia certo a casa la passione per il volo, che non scorda mai di portare con sé. Lavora come volontaria nelle missioni umanitarie, aprendo col suo aeroplano nuove rotte per prestare assistenza alle tribù che vivono nei villaggi più sperduti della cordigliera delle Ande o nell'intricata vegetazione della foresta amazzonica. Per questo suo incessante lavoro di aiuto, sostegno e mediazione culturale, la Cobb riceve un'onorificenza dal governo dell'Ecuador e nel 1980 una candidatura per il Nobel per la pace. Non è riuscita ad arrivare fino alle stelle, però di strada sul suo aeroplano ne ha fatta parecchia. Anche il governo degli Stati Uniti, seppur con la dovuta calma, fa i suoi passi avanti. Nel 1964 il Civil Rights Act dichiara che non solo la discriminazione razziale, ma anche quella di genere è illegale negli Stati Uniti. Ormai per Jerry è tardi, ma c'è chi molti anni più tardi saprà far tesoro di questa doverosa dichiarazione. Quello che la storia ricorderà è che questo viaggio spaziale è stato in assoluto il primo per una donna americana. Ad aspettarla questa sera a Houston c'era il marito, che è anche lui un astronauta. È tutto da Terry Drinkwater per CBS News dalla Edwards Air Force Base in California. Edwards Air Force Base, California. È il 24 giugno del 1983, giorno conclusivo della missione STS-7 del programma Space Shuttle. È la seconda missione per la navetta Challenger e la prima in assoluto per uno dei suoi passeggeri, la 32enne Sally Ride, dottore in fisica, nonché prima donna americana a mettere piede nello spazio. È lei che inaugura l'ormai lunga serie delle donne astronaute, dalle sfortunate Krista McAuliffe e Judith Resnick, morte il 28 gennaio del 1986 nel disastro dello Shuttle Challenger, fino all'intrepida Eileen Collins, che nel 1995 è decollata dal Kennedy Space Center a bordo della navetta Discovery, saldamente seduta sul sedile del pilota. Le cautele e gli impedimenti degli anni 60 sembrano ormai un ricordo sbiadito, almeno a sentire il presidente Ronald Reagan rivolgersi a Sally Ride, la prima americana nello spazio. Vorrei solo ricordarle che quando abbiamo pranzato insieme alla Casa Bianca, prima della sua partenza, qualcuno ha detto che a volte il miglior uomo per fare certi lavori è una donna. Lei era lì perché lei era la persona migliore che potessimo avere per quel lavoro. Può darsi che sia un po' tardivo, ma è pur sempre un riconoscimento. La strada aperta da donne del calibro di Amelia Earhart, Jackie Cochran e Jerry Cobb ha finalmente portato il gentil sesso a vedere le stelle. E nell'aprile del 1990 l'americana Catherine Sullivan le ha anche toccate con mano, compiendo la sua prima passeggiata nello spazio. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.